Letture di Radio 24. Mercoledì 15 alle 20.09 un astronauta italiano è partito a bordo della Soyuz da Baikonur in Kazakistan per una missione che lo vedrà impegnato sulla Stazione Spaziale Internazionale per 6 mesi. Il cosmonauta è Paolo Nespoli e non è al suo primo viaggio. Già nel 2007 è stato membro dell'equipaggio dello Shuttle Discovery che lo ha portato in orbita per 15 giorni. Un boato e poi un enorme applauso mentre il maxischermo rilanciava le immagini del missile russo che portava in orbita l'astronauta italiano Paolo Nespoli. Per una sera, un intero paese in provincia di Milano, Verano Brianza, si è stretto intorno al suo concittadino che è partito per una lunghissima missione nello spazio che durerà 6 mesi. A salutare il figlio, in prima fila nella palestra del palazzetto dello sport di Verano, la mamma di Paolo Nespoli e tutta la sua famiglia, che ormai si è un po' abituata alle missioni spaziali. Certo, nel 2007, racconta Antonella Nespoli, eravamo un po' più emozionati, ma anche ora siamo davvero contenti di partecipare a questo evento. È tutto veramente bellissimo, dice la madre Maria. Mio figlio è il mio orgoglio più grande. È arrivato fin lì con un enorme impegno e grazie a una costante fiducia e a tanta gioia nel lavorare. Ma tra enormi fette di panettone brianzolo e nel caldo della palestra, almeno 600 persone sono venute a seguire l'evento live. A promuovere l'iniziativa, il gruppo storico degli amici di Paolo Nespoli, il Toto 13, i ragazzi che da sempre accompagnano l'astronauta italiano nelle sue missioni. Nessuno ha tradito mai paura o apprensione. E anche le nipotine di Paolo ormai pensano che sia normale avere uno zio che per lavoro fa l'astronauta. Rispetto alla missione precedente, ha raccontato Nespoli, il training è stato molto meno dettagliato. Ci sono esperimenti che abbiamo testato più di un anno fa e che quasi non ricordo più cosa prevedono. Mentre nella precedente missione tutto era stato provato e riprovato fino alla vigilia della partenza. Per affrontare questa missione ci siamo quindi soffermati soprattutto sugli aspetti procedurali, in modo da sapere sempre cosa fare senza far affidamento sulla memoria. Abbiamo lavorato molto su noi stessi e sulla nostra capacità di gestione degli errori, ha spiegato Nespoli. Il rischio infatti è quello di commettere errori, ha continuato, e di lasciarci prendere da questi senza saper guardare oltre. Invece nello spazio dobbiamo saper andare oltre. Nessun problema invece per quanto riguarda la durata considerevole della sua crociera spaziale, né da un punto di vista affettivo, Nespoli ha una moglie e una figlia che lo aspettano a Houston, né pratico. Abbiamo la possibilità, detto Nespoli, di mandare email e di telefonare ogni giorno. La cosa buffa è che la mia bambina, che ha solo 1 anno e mezzo, ha già cominciato a riconoscermi attraverso gli schermi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giovanni Caprara, Nespoli di nuovo in orbita, pubblicato sul Corriere della Sera del 16 dicembre. Nel 2006 a Bolzano una scuola materna cancellò dal programma della recita natalizia le canzoni che facevano riferimento a Gesù. Nel 2009 a Cagliari le maestre disertarono uno spettacolo natalizio per rispetto dei bambini musulmani. Quest'anno a Varese un sacerdote non è potuto entrare nelle classi per la benedizione natalizia e a Livorno sono stati vietati i canti religiosi nei festeggiamenti di fine anno. Natale multietnico o assurda forzatura? In molte scuole materne italiane si usa da tempo celebrare il Natale preparando assieme ai bambini un presepe o addobbando un piccolo abete per invitare poi le famiglie in classe a scambiarsi auguri, dolci e doni. Ho partecipato spesso a festicciole di questo tipo. Ma come festeggiare il Natale in una scuola materna nella quale giocano e crescono insieme bambini dai 3 ai 6 anni di diversa religione e nazionalità e dunque non tutti cattolici? Le insegnanti di una scuola materna comunale di Milano, che hanno deciso di annullare la tradizionale festa natalizia con la presenza delle famiglie e il rituale scambio di auguri e di doni, lo hanno fatto senza dubbio con le migliori intenzioni del mondo, per non offendere o isolare i bambini non cattolici, ma non credo che abbiano preso la decisione giusta. Il Natale, infatti, può essere tranquillamente celebrato insieme come una festa comune, con scambio di auguri e regali, senza che ciò rappresenti un'offesa, una discriminazione o una minaccia di cancellazione delle diverse identità dei piccoli, cattolici gli uni, musulmani gli altri. Per i primi, infatti, si celebrerà con il Natale la nascita di Gesù, figlio di Dio. Per gli altri, si celebrerà con il Natale la nascita di un profeta. Su di lui scenda la pace di Allah, recita il Corano. Il Natale, insomma, può essere, anche al di là di questi riferimenti al Vangelo e al Corano, un'occasione di incontro e di festa per i bambini e le rispettive famiglie di diversa cultura e religione, destinate a vivere, crescere e lavorare insieme nel nostro paese nei prossimi anni. È proprio nella scuola materna e in quella elementare che può, deve cominciare una serena convivenza tra bambini di diversa nazionalità, lingua, religione e cultura. Questo processo è già in corso in centinaia di scuole materne ed elementari del nostro paese, dove la presenza di bambini stranieri è in costante crescita ormai da molti anni. Secondo dati del Ministero non del tutto aggiornati, si riferiscono all'anno scolastico 2007-2008, i ragazzi stranieri che studiano nelle nostre scuole sono 575.000. Di questi, 200.000 sono nati in Italia. Sono coloro che si definiscono la seconda generazione, bambini e ragazzi che vivono generalmente nel nord del nostro paese e nelle aree più dinamiche del centro. Bambini e bambine destinati a crescere nel nostro paese, con i nostri figli e nipoti, con i loro stessi gusti e abitudini, che si sentono italiani anche se non professano la religione cattolica. In una società che appare purtroppo sempre più divisa e rissosa, può essere di buon augurio per il nostro futuro che ci siano delle scuole dove i bambini tra i 3 e i 6 anni, cattolici e musulmani, festeggino insieme il Natale con le loro famiglie, in attesa e nella speranza che presto a quei bambini nati in Italia venga riconosciuta la cittadinanza italiana. Avete ascoltato l'editoriale di Miriam Mafai, Una festa non ha mai fatto male a nessuno. Pubblicato da Repubblica del 16 dicembre.